America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, l'Illinois è andato a Mitt Romney. La notizia è di ieri notte. Mitt Romney con la moglie in festa a Chicago, in festa perché hanno anche celebrato il loro 43esimo anniversario di matrimonio e dunque hanno ringraziato l'Illinois perché, ha detto la moglie di Romney, ci avete aperto la strada per la nomination repubblicana. Thank you, Illinois. What a night. Avete sentito Mitt Romney, raggiante, che rivendica questa vittoria, rivendica il diritto di confrontarsi ormai direttamente con Barack Obama, ritiene che un confronto continuato all'interno del Partito Repubblicano sia una perdita di tempo, sia un esercizio che andrà a rafforzare soltanto il concorrente, l'avversario, il presidente che vogliono scalzare dalla Casa Bianca, cioè appunto Barack Obama. La sua vittoria, devo dire, è stata piuttosto netta perché stiamo parlando di un 46,6% per Romney, 35,1% per Santorum. Ecco, però la cosa che mi ha colpito di più è che Gingrich è arrivato quarto col 7,9% contro il 9,3% di Ron Paul. Dunque la domanda ritorna: Gingrich, perché non te ne vai? Beh, dovrebbe essere a questo punto arrivato il momento, secondo me sarà questione di giorni, è possibile che Gingrich voglia resistere e voglia mantenere la promessa di arrivare fino in fondo per poter accumulare quanti più delegati possibili e dunque fare bella figura poi alla convenzione di Tampa in Florida. Però a questo punto si tratterebbe solo di una manifestazione di egoismo. È ovvio che Santorum potrebbe fare meglio se non avesse la concorrenza di Gingrich nel voto conservatore. Questo si dice, in realtà non ne sono così convinto, perché Santorum e Gingrich insieme hanno fatto il 41-42%, dunque Romney avrebbe vinto lo stesso anche se tutti i voti di Gingrich fossero andati a Santorum, ma le statistiche ci dicono che comunque non sarebbe così. Se Gingrich si ritirasse, il suo voto andrebbe a spezzarsi un po' a Romney e un po' a Santorum. This is not the Wyden Ryan plan, this is the House Republican budget. But we include several elements like the traditional fee for service. Ecco, i repubblicani sono svegliati perché hanno presentato ieri il loro bilancio, hanno schierato Paul Ryan, uno degli idoli del Partito Repubblicano, per far capire che anche loro ci sono, e una risposta a Barack Obama. Barack Obama fa il presidente, come sappiamo, in viaggio a Oklahoma City per parlare di energia, poi andrà anche in Arizona, insomma fa vari viaggi per cercare di recuperare sul fronte energetico. Tra l'altro il prezzo del greggio è leggermente rientrato grazie a un annuncio dei sauditi che aumenteranno la produzione, dunque un punto di vantaggio per Obama. Ma mi domando, è soltanto una coincidenza che questo punto di vantaggio sul prezzo del greggio, questa decisione dei sauditi, arrivi in coincidenza con i suoi discorsi energetici? Ma le coincidenze sono possibili, ma non tenderei a crederci troppo. Comunque sia, i repubblicani, vi dicevo, controbattono e hanno proposto un bilancio che contiene un dato che mi fa un po' paura, perché prevedono di poter raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2040. Stiamo parlando non di breve, medio, lungo, ma addirittura di lunghissimo termine. Le proposte repubblicane: ridurre le imposte federali sul reddito a 2 dalle 6 attuali, la più elevata sia per le famiglie che per le imprese, non supererà il 25% contro il 35% attuale. Beh, è chiaro che se si continuano a abbassare le tasse, beh, sarà difficile migliorare la posizione di bilancio. Non solo, ma ci sono proposte di riforma dell'assistenza medica ai poveri, Medicaid, si vogliono risparmiare 800 miliardi in 10 anni, si vogliono tagliare i dipendenti pubblici del 10%, insomma è soprattutto un piano per tagliare le spese, non è un piano per aumentare le tasse. È difficile che sulla base di questi progetti possa esserci un compromesso, e dunque il problema del debito, il problema del disavanzo pubblico americano e quello del debito resteranno aperti fino alle elezioni e potrebbero in qualche modo diventare un problema da qui ad allora, soprattutto se alcune municipalità come Stockton, ad esempio in California, dovessero fallire. Two decades after the end of the Cold War, we face a cruel irony of history. The risk of a nuclear confrontation between nations has gone down, but the risk of nuclear attack has gone up. Beh, infine devo darvi qualche anticipazione su Barack Obama in Sud Corea. La settimana prossima visiterà la zona demilitarizzata che divide le due Coree lungo il 38esimo parallelo. Beh, è una tappa molto interessante. Ci sono stato un paio di volte al seguito dei presidenti Clinton, del presidente Bush, e si arriva in questa strana costruzione. Davanti c'è la terra di nessuno e dall'altra parte ci sono i nordcoreani che ti guardano in cagnesco, sono vestiti come li vediamo nei film, con queste divise di ispirazione sovietica, visi durissimi, fucile in pugno, insomma un'immagine della guerra fredda nel 2012 che avremmo pensato essere scomparsa. Si parlerà di disarmo nucleare, ma soprattutto Barack Obama incontrerà il presidente cinese Hu Jintao, quello russo Dmitry Medvedev e ovviamente sudcoreano Lee Myung-bak. Da questo vertice, al quale parteciperà anche il presidente del Consiglio Mario Monti, si cercherà di uscire con nuove forti pressioni contro la Corea del Nord, che pure continua la sua sfida, perché ha recentemente annunciato di voler annunciare un missile nello spazio con un satellite, di voler collaudare il lancio di questo missile, dunque un'ulteriore provocazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla ad Amelia Earhart, l'aviatrice solitaria che 75 anni fa sparì nel Pacifico. Non si trovò più nulla, non si trovò il suo corpo, non si trovò l'aereo e rimase un mistero avvolto dalla leggenda. Ebbene, una fotografia recente sembra mostrare un relitto vicino all'isola di Nikumaroro nel Pacifico. Hillary Clinton ha annunciato che partirà una spedizione per cercare di risolvere questo mistero già in luglio. E dunque, dedicando ad Amelia Earhart questa canzone del giorno, non potevamo che ripescare di Joni Mitchell, grande idolo della musica americana, cantautrice straordinaria, Amelia. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get America 24.